GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Quasi 5 miliardi per scongiurare l'effetto recessione, la posta più alta sulla sanità nell'ultima finanziaria della Giunta Fedriga. Memoria e gratitudine per l'unità della nazione, al sacrario di Re di Puglia l'omaggio ai caduti con la Russa e Ciriani. Nuova perizia per stabilire la pericolosità di Meran, 3 anni fa a Trieste uccise 2 poliziotti in questura. Attesa per le novità sul superbonus edilizio, in regione finora 7.500 interventi per 1 miliardo ammesso a detrazione. Al via i lavori per il nuovo Museo del Mare in Porto Vecchio a Trieste. Ci sarà anche un ristorante panoramico. Finanziamenti regionali per i poli termali, riaprono Arte e Monfalcone che con 6 milioni amplierà l'offerta wellness. A Trieste un congresso nazionale dedicato al fenomeno sempre più diffuso dei disturbi alimentari tra i giovani. Calcio, l'Udinese fatica contro il Lecce, solo un punto per i bianconeri, il gol di Beto recupera il vantaggio dei pugliesi. 7:19 minuti di sabato 5 novembre, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. A Trieste 14 gradi, vento a 55 km orari da est-nord-est, bora con raffiche che hanno raggiunto i 77 km orari, mare molto mosso con temperatura di 20 gradi. A Gorizia e Pordenone 13,5 gradi, a Udine 12,5 gradi, a Tolmezzo 7 gradi, sul Piancavallo 4,5 gradi, a Forni di Sopra e a Tarvisio 3 gradi, a Sappada 0. Su Monte Lussari e Monte Zoncolan 1 grado sotto lo zero. A Lignano e a Grado 15 gradi, temperatura del mare 17 gradi. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo sereno, poco nuvoloso per qualche annuvolamento di mattina ad est. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà borada moderata sostenuta. Ed è ancora in corso la ricognizione dei danni della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul Friuli e sull'Isontino nella notte tra giovedì e ieri. A Chiopris-Viscone ieri è stata disposta con un'ordinanza in via cautelativa la sospensione della circolazione sul ponte sul Torre lungo la regionale Palmarina. A Resia, sempre su indicazione dell'EDR, l'ente di decentramento, una ditta specializzata è intervenuta lungo l'ex provinciale per rimuovere una colata di detriti sulla via. Il traffico era stato chiuso in mattinata e in seguito riaperto. A Grado, così come a Lignano, mareggiate. A Grado parte della spiaggia è stata erosa, la quarta ha causato allagamenti nella zona del Mandracchio. A Cormonsi i vigili del fuoco sono intervenuti per un albero caduto su un'abitazione che ne ha determinato l'inagibilità. Diversi gli allagamenti di strade scantinati. Ieri a San Giorgio l'acqua ha costretto a chiudere temporaneamente il sottopassaggio di Viale della Libertà, disagi anche ad Aquileia per la caduta di alberi a Pulfero per un masso caduto su una strada comunale. La Giunta regionale ha approvato la legge finanziaria che dovrà essere approvata dal Consiglio entro l'anno. Obiettivo di fondo, ha spiegato l'assessore alle finanze Barbara Zilli, evitare la recessione annunciata per il prossimo anno. 4 miliardi e 760 milioni di euro è il valore complessivo della legge di stabilità, il documento chiave con il quale la Regione stabilisce come spendere i soldi dei cittadini. Il testo uscito dalla Giunta per il momento è preliminare. La manovra, assicura l'assessora alle finanze Barbara Zilli, verrà ulteriormente irrobustita nei prossimi passaggi fino a quello dell'Aula che dovrebbe approvarla a metà dicembre. La posta più importante, come al solito, è quella della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, che per il momento ha a disposizione 2 miliardi e 825 milioni. Il settore autonomie locali può contare su 780 milioni, su infrastrutture e territorio ci sono per il momento 404 milioni, mentre per lavoro, formazione, istruzione e famiglia ci sono 170 milioni. Da segnalare ancora il capitolo ambiente, energia e sviluppo sostenibile con 121 milioni. Per la Direzione Centrale Patrimonio, Demanio, Servizi Generali e Sistemi Informativi 119 milioni e per la Direzione Centrale Attività Produttive e Turismo 107 milioni. 81 milioni andranno per il settore primario, agricoltura, foreste e risorse ittiche, mentre sono 57 i milioni di euro destinati alla Direzione Centrale Cultura e Sport e 14 milioni quelli per la Protezione Civile Regionale. L'intento, spiega comunque Zilli, è garantire disponibilità a tutti i comparti, facendo in modo che la comunità regionale possa continuare a crescere. L'approvazione in giunta è il primo passaggio di un percorso che prosegue il 9 di novembre, quando il testo verrà esaminato dal Consiglio delle Autonomie Locali. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. E ieri al Sacrario di Re di Puglia, sotto una pioggia battente, l'omaggio dello Stato ai caduti della Prima Guerra Mondiale nella giornata delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia. Vento forte e pioggia battente. La cerimonia del 4 novembre quest'anno è stata caratterizzata dal maltempo, ma nonostante il disagio si è svolta regolarmente. In rappresentanza del Capo dello Stato ha partecipato il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. È una giornata bagnata dalla pioggia, ma illuminata dal grande ricordo verso i caduti di tutte le guerre nel nome della patria. Il 4 novembre, anniversario della vittoria italiana della Prima Guerra Mondiale, si celebra il giorno dell'Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate. Dopo la deposizione della corona di fiori sotto la tomba del Duca d'Aosta, il Presidente del Senato ha reso omaggio nei pressi dei gradoni sotto i quali riposano i resti di 100.000 caduti della Grande Guerra. Abbiamo dato il presente alla loro memoria e lo abbiamo scritto sull'albo d'onore, come credo è avvenuto ogni anno e come spero avverrà per sempre. A rappresentare il governo, il ministro per i rapporti con il Parlamento, il pordenonese Luca Ciriani. In passato aveva preso parte alla cerimonia in qualità di consigliere e assessore regionale. Si tratta di ricordare a tutti che qui celebriamo il dovere della memoria e la gratitudine nei confronti di tutti i caduti per la patria, che la festa del 4 novembre è la festa del compimento del disegno risorgimentale dell'Unità Nazionale. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Torniamo a parlare di economia. Il governo è alle prese con la rimodulazione del super bonus edilizio, che dovrebbe scendere al 90%, ma riguardare anche le villette. 7.500 gli interventi realizzati in regione dall'introduzione di questa agevolazione. Tra i tanti dossier sul tavolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze c'è anche quello del superbonus 110, che secondo indiscrezioni potrebbe essere abbassato al 90%, introducendo anche un criterio di reddito e il numero dei componenti della famiglia. Tornano le villette, ma in questo caso le detrazioni sono legate al reddito e al quoziente familiare. Una misura, quella del superbonus, che in Friuli Venezia Giulia, al pari del resto dell'Italia, ha dato uno slancio al settore dell'edilizia. Secondo i dati di Confartigianato Udine, sono oltre 7.500 al 30 settembre gli interventi fatti per oltre 1 miliardo di euro di investimenti ammessi a detrazione. Di questi però il 50% è stato utilizzato per edifici unifamiliari, il 17% per appartamenti autonomi e solo il 33% per condomini. Intanto, sull'ipotesi di introduzione del contributo statale al 90%, abbiamo sentito i pareri di Confartigianato e dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Graziano Tilatti, presidente Confartigianato Udine. Credo che quel compromesso raggiunto del 90% può essere un buon incentivo per il futuro di questa misura, per il futuro del recupero del patrimonio edilizio della nostra regione, della nostra Italia, e anche favorirà senz'altro, se fatto a sportello, quindi non con termini di scadenza, favorirà anche la transizione ecologica e energetica. Roberto Contessi, presidente ANCE FVG. Il 90% bloccherà la gran parte degli interventi su condomini. Questo è certo, perché c'è la fascia medio-bassa della popolazione che, specialmente in questi periodi, non si potrà mai permettere di andare a fare un mutuo per pagare dei lavori o la differenza dei lavori a carattere condominiale, anche perché dobbiamo tener conto che è solo sulla carta il 90%, perché poi bisogna aggiungere almeno un 20/25 di costo della cessione del credito. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Inizia a prendere forma il progetto del nuovo Museo del Mare al Magazzino 26 in Porto Vecchio a Trieste. Ieri la consegna dei lavori alla ditta abruzzese Edil Costruzioni Group di Teramo, che in regione ha già operato alcuni anni fa negli interventi di riqualificazione di via Mercato Vecchio a Udine. Il museo sarà su 3 piani con una scala elicoidale centrale. La visita si effettuerà dall'alto verso il basso. A firmare l'intervento un architetto di fama internazionale, lo spagnolo Guillermo Consuegra. Il termine è previsto per l'ottobre del 2024. L'intervento non si limita però al museo. In quest'area saranno realizzati anche sale conferenze, spazi espositivi, aree verdi con una vera e propria piazza pubblica e un nuovo ristorante sopraelevato con vista panoramica sul golfo, come spiega Fabio Polisini, direttore tecnico della ditta a cui sono stati affidati i lavori. il bello di questa struttura, che già parla da sé esternamente eccelsa, va fatto l'intervento è principalmente interno, e poi ci sarà il grande Mirador, che sarà il ristorante che verrà posizionato qui sopra. Ci saranno delle strutture in acciaio proprio in questo punto qui, che poi sarà, diciamo, una parte che si vedrà molto bene da fuori e avrà una bella vista, e sarà un'ottima attività per tutta Trieste. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono in arrivo contributi per i poli termali del Friuli Venezia Giulia. Serviranno a far fronte alle spese per l'energia e ad ampliare le terme romane di Monfalcone. Dopo la chiusura dei poli termali di Arta e Grado per i costi energetici, di Monfalcone per la manutenzione temporanea, e con la piscina terapeutica di Trieste crollata e ferma da 3 anni, gli utenti con necessità curative e riabilitative in acqua calda dovevano ricorrere alle terme della Slovenia, dell'Austria e del Veneto. Oggi la svolta. Sergio Emidio Bini, assessore alle attività produttive e turismo del Friuli Venezia Giulia. Daremo dei finanziamenti importanti per ciascuna delle terme del Friuli Venezia Giulia, pari a 150.000 euro. Sono finanziamenti emergenziali per quanto riguarda il caro energia. Salvatore Guarneri, amministratore delegato di Terme Friuli Venezia Giulia. I finanziamenti previsti ci consentono di riaprire le terme di Arta e di proseguire con l'attività a Monfalcone. Arta dopo la fine di novembre, mentre Monfalcone continuerà la sua attività nel corso di novembre e dicembre. Intanto il comune di Monfalcone annuncia i dati del turismo con 220.000 presenze in città nel 2022, una crescita superiore al 10% dovuta in particolare al transito delle crociere. Per ampliare l'offerta nel wellness, le terme romane verranno potenziate. Accanto alle strutture terapeutiche sorgerà un nuovo polo per il benessere ricreativo da 2.000 metri quadri, con piscina interna ed esterna, sauna, bagno turco e percorso Kneipp dedicato agli arti inferiori. Oltre 6 milioni di euro al fine di rendere questa struttura sempre più attraente e ricca di servizi. L'inizio dei lavori per metà del prossimo anno e l'apertura al cittadino è prevista per l'estate del 2024. Monfalcone, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora il contestato progetto della Cabinovia a Trieste, vista l'iniziativa di promuovere una conferenza dei servizi per approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Comitato Novo Via chiede al Comune di rendere pubblici i contenuti di alcuni pareri espressi dai soggetti istituzionali chiamati a pronunciarsi nel merito, in particolare quanto emerge da un'analisi del progetto che, dice il Comitato, continua a presentare vistose carenze per quanto concerne aspetti ambientali, paesaggistici, geologici, trasportistici, meteorologici, oltre ad essere economicamente insostenibile. Osservazioni cui il Comune ribadisce di avere già risposto al Comitato. Lo stesso Comitato scrive in una nota che la Soprintendenza ha richiesto in diverse occasioni di poter visionare attraverso documentazione tridimensionale l'impatto dell'opera sul comprensorio. Elementi, conclude il Comitato, che il Comune fino ad oggi non ha fornito e continua a rimandare a fasi progettuali successive. Segnaliamo ora un appuntamento politico a Udine alle 15.30 al Caffè Corin di Via Roma, incontro pubblico sul tema Borgo Stazione e la questione sicurezza a Udine. Parleranno Luigi Armano, commerciante, candidato nella lista Io amo Udine, Libri elettori, Eddie Sanson, presidente dell'associazione I nostri diritti, e Stefano Salmè, candidato sindaco della lista Io amo Udine, Libri elettori. A Trieste è in programma in Piazza della Borsa alle 16 un presidio per la pace in parallelo a quello previsto a Roma e organizzato in entrambi i casi dal comitato promotore della marcia Perugia-Assisi, inteso a richiedere un'immediata conclusione della guerra in Ucraina, oltre a un negoziato per la pace e la messa al bando delle armi nucleari. Per ricordare Pietro Addobbati, Erminio Bassa, Leonardo Manzi, Saverio Montano e Francesco Paglia, oltre ad Antonio Zavadil, medaglie d'oro al merito civile caduti nel corso della rivolta di Trieste del 1953, il parroco Don Roberto Riosa celebrerà una santa messa a Trieste nella chiesa di Sant'Antonio Nuovo alle 17. A seguire si terrà la deposizione di una corona di alloro alla targa posta sotto il pronao della chiesa. La cronaca giudiziaria è cambiata, la pericolosità sociale di Alejandro Augusto Stefan Meran, l'uomo che nel 2019 uccise in questura a Trieste i poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Domenego. A questa domanda dovrà rispondere, con la relazione che sarà depositata per il 20 gennaio, Francesco Piani, lo psichiatra incaricato della rivalutazione periodica delle sue condizioni. Il 6 maggio i giudici della Corte di Assise lo avevano assolto, dichiarandone la pericolosità sociale e disponendo il suo trasferimento per 30 anni in una REMS, una residenza, cioè per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Meran però si trova ancora nel carcere di Verona in attesa che si liberi un posto nelle strutture. Intanto, scaduti i 6 mesi dall'ordinanza provvisoria, la legge impone la rivalutazione della sua pericolosità sociale per un eventuale adeguamento delle misure. Nel frattempo si attende il processo di secondo grado, dopo che la Procura Generale ha proposto appello contro la sentenza di primo grado. Passiamo alla cronaca. Diversi gli incidenti stradali avvenuti ieri, il più grave a San Daniele, dove nel tardo pomeriggio un uomo ha perso il controllo dell'auto e centrato con violenza alcune auto parcheggiate. Intubato sul posto, è stato trasferito in elicottero a Udine. E a Udine invece un uomo in carrozzina e un pedone che stava conducendo a mano la bicicletta sono stati investiti in mattinata in Viale Venezia, finendo entrambi in ospedale. A Cordenone infine un ragazzino è stato investito da un'auto in via San Giovanni. L'impatto fortunatamente non è stato violento. Voltiamo pagina. Mente e corpo, la restrizione alimentare in adolescenza. Il congresso nazionale dedicato al fenomeno dell'alimentazione anormale nei più giovani, spesso abbinata a comportamenti disfunzionali sul peso e sull'atteggiamento nei confronti del corpo, che sfociano in problematiche fisiche e psicosociali con risvolti negativi sulla qualità della vita, spesso guaribile a fronte di cure protratte. L'iniziativa si terrà a Trieste, al Molo IV, dalle 9. Tra i relatori Giuseppe Abbracciavento, neuropsichiatra infantile dell'Istituto Giuliano di Ricerca Burlo Garofalo, a cui abbiamo chiesto una sintesi del suo intervento. I disturbi della condotta alimentare sono un problema emergente soprattutto oggi nell'ambito pediatrico e nell'adolescenza. Abbiamo visto negli anni un abbassamento dell'età di insorgenza anche in età prepubere e un aumento dell'incidenza e anche della gravità di questi disturbi, ed è quello che noi stiamo registrando, anche la letteratura registra, è che a fronte di una diminuzione di ricoveri pediatrici per svariate ragioni anche internistiche, quindi di problemi patologici dell'età evolutiva, aumenta il rapporto invece i ricoveri per ragazzi con questo tipo di problematica. Gli esiti sono degli esiti positivi se andiamo a confrontare cosa succede a persone adulte, dove magari il disturbo poi si sviluppa in qualche modo, va anche a compromettere la qualità di vita. Nell'ambito dell'adolescenza e dell'età evolutiva, quello che la letteratura ci dice è che i ragazzi e i giovani sicuramente hanno degli strumenti per poter reagire, e dove addirittura delle caratteristiche che possono predisporre la persona a manifestare questo tipo di disturbo, per esempio a volte ci sono dei tratti di perfezionismo che poi vengono in qualche modo orientati sul perfezionismo corporeo, chiaramente in maniera disfunzionale e patologico. Ebbene, lo stesso perfezionismo, se poi vediamo che viene investito nell'attività che interessa la persona, può essere uno di quei fattori che predispone a un miglior esito a lungo termine. Sempre in tema di salute, prosegue il convegno su chirurgia vertebrale e osteoporosi patrocinato dall'azienda sanitaria Friuli Centrale e dall'Università di Udine, in programma a Udine all'Ambassador Palace Hotel di Via Carducci a partire dalle 9. Ed è aperto al pubblico il convegno Le malattie respiratorie, dalla ricerca scientifica all'integrazione ospedale territorio, in programma a Monfalcone al Teatro Comunale, sempre dalle 9. Penultima giornata della 22esima edizione del Trieste Science Plus Fiction Festival, manifestazione dedicata al genere fantastico. Tra le varie sezioni della rassegna, quella intitolata Mondo Futuro, in locandina oggi la conferenza di Renato Colucci, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che interverrà in tema SOS Ghiacciai a Trieste, all'Hilton Hotel di Piazza Repubblica alle 11. A seguire è previsto l'intervento Missione Antartide e Scienza Estrema tra i ghiacci del Polo Sud, che sarà condotta dalla ricercatrice dell'Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, Florence Colleoni. Tra gli altri appuntamenti odierni della rassegna, la masterclass a ingresso gratuito del regista Neil Marshall, noto per la direzione di alcuni episodi della serie televisiva Il Trono di Spade, che è prevista al Teatro Miela alle 16, a seguire la proiezione di Pluto del regista Renzo Carbonera alle 21. E ora allo sport, e cominciamo dal calcio e dall'anticipo di ieri al Friuli con l'Udinese che ha ottenuto un faticato punto contro il Lecce. Un punto ancora una volta in rimonta per l'Udinese, ma nessun rimpianto friulano, perché il Lecce, dopo aver rischiato di andare in vantaggio già al secondo minuto con Strefezza che colpisce il palo, gioca meglio nel primo tempo e va in gol con Colombo. L'Udinese soffre la fisicità del Lecce e non riesce a creare pericoli alla porta di Falcone. Nel recupero arriva un altro palo per i salentini con Gallo che fa tremare l'incrocio con il suo sinistro e i friulani che si rifugiano nell'intervallo. Nella ripresa l'azione della formazione friulana non trova profondità e Beto non riesce a fare pace con il gol. Falcone è attento fino a quando Success, subentrato, serve all'attaccante portoghese l'assist per il pareggio della squadra di Sottil. Beto ritrova così la rete dopo 5 gare e l'Udinese riacquista coraggio. Nel recupero il portiere del Lecce salva su Pereira e blocca il tiro di Ebosele. Alla fine un pareggio per l'Udinese che non vince da 5 partite. Sentiamo il tecnico Andrea Sottil. È stata una partita molto, molto tirata fino all'ultimo. Secondo me noi il primo tempo siamo partiti un po' tesi, abbiamo avuto comunque delle occasioni perché le abbiamo avute. Poi il gol, secondo me siamo stati sfortunati perché la palla è rimasta lì. Però è un'altra ennesima prova di grande carattere, di grande consapevolezza di quello che siamo. Il secondo tempo è stato tutto in crescendo. Abbiamo creato tanto, chi è entrato si è fatto trovare pronto, ci siamo alzati molto, abbiamo tirato tanto, abbiamo fatto gol e potevamo vincerla. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ieri a Roma alla Rapacis l'accensione della torcia che porterà la fiamma del Festival Olimpico della Gioventù Europea dalla capitale a Trieste. In Friuli Venezia Giulia infatti sarà in programma la 16ª edizione invernale degli EIOF dal 21 al 28 gennaio prossimi. Un momento in cui percepiamo in maniera palpabile la responsabilità della regione Friuli Venezia Giulia di rappresentare a distanza di 30 anni l'Italia a questa edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea, ha detto il governatore Fedriga, affiancato dal presidente dei Comitati Olimpici Europei Spiros Capralos, dal presidente del CONI Giovanni Malagò, dal comitato organizzatore e dal presidente del comitato organizzatore di EIOF Maurizio Dunhofer e dalla campionessa friulana Sara Scatolo, medaglia d'oro ai mondiali di biathlon conquistata a marzo. Passiamo alla pallanuoto maschile. Nella terza giornata di andata del campionato di Serie A1, la squadra di Trieste sarà impegnata sul campo della Distretti Ecologici di Roma. Si gioca nella piscina del polo acquatico Freccia Rossa di Ostia con inizio alle 16. Della Bardati accusano stanchezza per le ottime partite del mese precedente, ma potranno contare sul centro boa Ivo Bego, tornato a disposizione dopo l'infortunio patito in Eurocup. Grazie al suo rientro, l'allenatore Daniele Bettini potrà schierare di nuovo la formazione tipo. Basket A2 femminile, Futurosa Trieste, Villafranca contro l'Ecodent Verona alle 20:30. In B, Monfalcone, Pontoni Falcon Star affronta stasera al Pala Paliaga alle 20:30 alla Green Palermo. Per la pallamano la squadra di Trieste sarà in trasferta contro Spare Rappiano. Entrambe le squadre sono ancora imbattute nel girone A della Serie A2. Inizio partita alle 19. 33ª edizione per il Memorial Mario Vecchiato, dedicato a uno dei più grandi interpreti della storia della box friulana, che quest'anno ospiterà 4 diversi livelli di competizione tra gli atleti sul ring: la maranese Lucia Scala, il triestino Cristiano Riccobon, Andrea Crevatin del Trieste Pugilato e il bianconero Eric Bego. In programma anche il racconto Ogni pugno una scommessa, vita leggenda di Primo Carnera del giornalista Valerio Marchi, a Udine al Palasport Benedetti dalle 17. 7.42, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani, oggi in edicola. L'apertura del Piccolo di Trieste per la legge finanziaria regionale, di cui vi abbiamo già dato conto. Il quotidiano precisa che crescono anche i fondi per autonomie locali e infrastrutture, stabile invece la cifra per la protezione civile. La fotonotizia è per la nuova stagione lirica del Teatro Verdi di Trieste, che è stata inaugurata ieri sera con l'Otello di Verdi. In taglio alto la visita di La Russa Re di Puglia e per l'economia l'assegnazione ai dipendenti della sede triestina della multinazionale Wärtsilä del bonus trimestrale nonostante l'attività ridotta della fabbrica. Nel quotidiano anche un altro articolo dedicato all'arrivo in Corea dei motori tenuti in blocco per diversi giorni dai sindacati a Trieste in segno di protesta. Ancora in stand by invece in aziende propulsori ordinati da Fincantieri e A2A. Ancora in tema economia, i dati dell'Associazione degli acquirenti sloveni che dimostrano una situazione di recessione per Lubiana. Capocronaca interno, l'avvio del cantiere del Museo del Mare, di cui vi abbiamo parlato poco fa. Il gas c'è, consumi in calo, l'apertura del Messaggero Veneto di Udine sul flusso costante di metano russo a Malborghetto che consente stoccaggio ed export in Austria. Sopra una foto della mareggiata di ieri a Lignano. A centro pagina un'altra foto per l'investimento di ieri a Udine di un disabile e di un pedone in Viale Venezia. A fianco commercianti, zone di carico e scarico occupate abusivamente, è il tema che apre anche la cronaca cittadina. Sotto crolla Cervignano la recinzione dello storico campo sportivo Colussi, un crollo, si legge all'interno, su cui il maltempo ha solo parzialmente influito. In alto, manovra finanziaria e risultati scolastici. Per i test invalsi un terzo degli studenti è carente in matematica, italiano e inglese. In taglio basso l'Udinese non brilla e rimedia un pari al Friuli contro il Lecce. Sul Gazzettino, infermieri in fuga, ospedali in crisi, l'apertura, poi un titolo per gli allagamenti, disagi provocati dal maltempo. Al centro la fotonotizia, in campo i bianconeri non riescono più a vincere e di spalla la politica in vista delle prossime regionali e le celebrazioni del 4 novembre di ieri. Sotto i commercianti chiedono più stalli per il carico scarico, accanto il sequestro di giochi con marchio contraffatto a Malborghetto, 250.000 articoli sequestrati. L'apertura e il capocronaca interno dell'edizione di Gorizia del Piccolo si occupano dei fondi Interreg Italia-Slovenia da destinare alla manifestazione della Capitale Europea della Cultura 2025, pari a oltre 8 miliardi di euro che saranno affidati direttamente all'ente JECTGO e serviranno a finanziare progetti fino a 200.000 euro. Fotonotizia per l'acqua alta che ieri ha minacciato Grado. Spazio poi al capocronaca interno di Monfalcone, dedicato alle terme di cui vi abbiamo appena dato conto. Ancora cronaca poi con l'apertura del fascicolo d'inchiesta della Procura di Udine per l'incidente mortale di mercoledì sera in A4, in cui hanno perso la vita due esontini. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale di Gorizia. Dalla pagina di Ronchi, l'apertura odierna della 57esima mostra ornitologica nella palestra di Via D'Annunzio. Sul Gazzettino di Pordenone, oltre all'apertura sulla sanità, nella fotonotizia c'è il caso di San Donà di Piave. Troppo acciaccato l'aereo di Ceolini che avrebbe dovuto essere trasportato in un parco di Via Martiri delle Foibe, impossibile muoverlo. Rapina a torre, banda condannata a 18 anni di carcere, sono i banditi che entrarono in casa dell'imprenditore Carlo Brescancini, sequestrarono la moglie di spalla. Un titolo per l'inflazione, Capordenone non lascia tregua a bibite e alimenti. Sul Messaggero Veneto, dalle elementari ai licei mancano 300 docenti e nella fotonotizia Pordenone, nella graduatoria degli aspiranti bidelli anche nomi di deceduti. Di fianco la cronaca con il maltempo, albero abbattuto dal vento su un'auto sulla Rivierasca lungo il Noncello. A Pordenone un lato di piazza Risorgimento potrebbe essere solo pedonale e ancora sempre nel capoluogo Candotti, presidente del consorzio universitario, e accanto a Valvasone, Arzene, cadono calcinacci dal soffitto, palestra chiusa alle elementari. Famiglie senza giustizia, il titolo dell'articolo pubblicato dal quotidiano torinese La Stampa, in cui si informa sull'intervento della famiglia Regeni al convegno intitolato Giustizia e verità negata, deficit giudiziario o ipocrisia del sistema, che si è svolto ieri a Milano. il violinista 17enne Nuri Chung, già vincitore del premio musicale internazionale Piccolo Violino Magico, di cui state ascoltando la registrazione in sottofondo, si esibirà nel concerto Luci Eterne. Con lui sul palco l'Accademia d'Archi Arrigoni e l'Orchestra San Marco di Pordenone, dirette da Caterina Centofante, già direttrice d'orchestra a Stoccarda, Londra, in Toscana e a Salisburgo. In programma musiche di Takemitsu, Tchaikovsky e Prokofiev. Appuntamento a San Vito al Tagliamento, all'Auditorium Comunale alle 20.45. Altri spettacoli: Lady Macbeth, suite per Adelaide Ristori, lo spettacolo incluso nella due giorni di conferenze e spettacoli dedicati alla diva teatrale nata a Cividale nel 1822. Si terrà Udine al Teatro Nuovo alle 20.45, la regia di Davide Livermore alle 17.30, sempre al Giovanni da Udine, l'incontro Adelaide Ristori, una regina in patria, con il critico e drammaturgo Andrea Porcheddu. Papagena o Papagena è il nuovo spettacolo della compagnia Trioquet in cartellone Osoppo al Teatro della Corte alle 20.45. Sul palco una mescolanza di lirica ispirata a Mozart con la nobile arte comica. La compagnia livornese Dimitri Canessa porta in scena lo spettacolo Hello I'm Jacket, il gioco del nulla, a Trieste Hangar Teatri alle 20.30. Si alza il sipario sulla stagione artistica del Teatro Comunale di Cormons con l'arrivo di Elio, che canterà e reciterà Enzo Iannacci in Ci vuole orecchio. Appuntamento alle 21. Appuntamento d'esordio per la 20ª edizione dei concerti di San Martino in Carnia, con l'esibizione serale del coro del Friuli Venezia Giulia in musiche di Bach e Vivaldi a Tolmezzo nel Duomo di San Martino. La prova finale, che decreterà il vincitore del 32esimo Festival Internazionale Città di Porcia, quest'anno dedicata alla tuba, si terrà a Pordenone al Teatro Verdi alle 20.30. Per festeggiare i 35 anni di attività, l'Associazione di Promozione Sociale La Ginestra organizza una serata musicale a Rorai Grande nella palestra della parrocchia di San Lorenzo alle 20. Sarà aperta al pubblico la tavola rotonda, conclusione del convegno annuale internazionale di studi Pasolini 100, ieri, oggi, domani, dedicato all'eredità e alla lezione dello scrittore corsaro e organizzato dal Centro Studi Pasolini. L'evento sarà preceduto dal focus sul tema Pasolini domani, prospettive ed eredità, a cui parteciperanno tra gli altri il romanziere Renzo Paris, che di Pasolini fu amico, oltre al giornalista Andrea Di Consoli, che ha sistemato le teche RAI con materiali d'archivio su Pasolini, e alla giornalista Maria Latella, che conobbe Pasolini da giovanissima. Appuntamento a Casarsa della Delizia, Palazzo Burovic, alle 11.30. Max Fabiani, architetto mitteleuropeo, la mostra oggi in inaugurazione. L'iniziativa, inclusa nel percorso espositivo Sguardi transfrontalieri, avanguardie di modernità nell'arte e nell'architettura dell'Europa ritrovata, si inserisce nel percorso di Gorizia Nova Gorizia, capitale europea della cultura 2025. L'inaugurazione sarà seguita dalla conferenza Max Fabiani, architetto mitteleuropeo, degli architetti Luisa Codeglia e Massimo Rocco, a Gradisca, a Disonzo, a Palazzo Toriani alle 17. Riguarda 15 anni di ricerche e scavi archeologici ai resti del Castello Superiore di Attimis, la mostra Feudatari, Cavalieri e Crociati, che è oggi in inaugurazione. In allestimento oltre 200 reperti del Friuli medievale tra X e XIII secolo, tra cui ceramiche di provenienza medio orientale e bizantina, che si collegano con una probabile partecipazione agli eventi della prima crociata in Terra Santa. L'appuntamento a Cividale al Museo Archeologico, con inaugurazione alle 11. La mostra Trastrazione e Realtà espone opere dei fratelli Afro e Mirko Basaldella provenienti da collezioni private. L'inaugurazione a Passons nelle sale dell'oratorio parrocchiale alle 17. L'allestimento sarà visitabile fino al 13 novembre, da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 e nei fine settimana anche dalle 10 alle 12.30. L'allestimento Ciò che non muore mai, Nagai, l'Atomic e noi, sarà accessibile da oggi fino al 20 novembre a Udine, al chiostro del Santuario della Madonna delle Grazie di Piazza Primo Maggio. La mostra itinerante Latte Senza Confini, Latte Senza Confini, il modello turnario nell'arco alpino, dedicata ad allevatori, malgari e casari resistenti e realizzata dal fotografo Graziano Soravito, sarà inaugurata a Gemona, Palazzo Elti, in via Bini alle 17, sarà visitabile fino all'11 dicembre. in attesa dell'avvio ufficiale della 15ª edizione del piccolo Festival dell'Animazione, in programma l'apertura della sede espositiva del Festival nella chiesa di San Lorenzo a San Vito al Tagliamento, con apertura di laboratori per giovanissimi dai 6 a 10 anni, dalle 14.30 alle 17. E inizierà alle 9.45 la pulizia dei fondali del Mandracchio a Muggia, sarà eseguita con l'apporto scientifico di Mare Vivo e Area Marina Protetta di Miramare. Passiamo alle nostre rubriche, oggi su Rai 3 torna il settimanale, ecco nella scaletta. Torna il settimanale in questa puntata, il buon bilancio della lunga estate italiana e a Forte dei Marmi stabilimenti aperti fino a domenica. A Sassari nei bar e ristoranti che si arrendono all'aumento dei costi. La storia di Eleonora, adottata da bambina e a sua volta mamma adottiva. I progetti per i borghi della Valnerina di chi è rimasto dopo il terremoto e il Covid. A Torino, le case del quartiere, spazi pubblici riqualificati per servizi ai cittadini. Con i social fa amare la fisica a tutti, Vincenzo Schettini, il prof influencer che incanta gli studenti. L'oro rosso di Altino, il piccolo peperone inserito tra i prodotti tipici tradizionali. Oggi nel settimanale 12.25 Rai 3. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con la nuova stagione di Biblos, ospiti Franco Malerba, primo astronauta italiano nella storia, autore del Cibo nello Spazio e ospite del Trieste Science and Fiction Festival, e poi il professor Vassim Damash, responsabile delle edizioni Q e autore di Memorie di Gerusalemme, presentato a Trieste, in cui approfondisce il tema della letteratura palestinese. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio regionale, in regia Maurizio Mona e Giampaolo Zucchi, in segreteria Samantha Gonda, Maria Spezia di Tamicoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.